Guarda, ecco la principessa, ed è in compagnia. Oh no, gli Spaceball! L'hanno già catturata con il raggio magnetico! Siamo arrivati tardi, che vergogna! Mettiamo la marcia indietro e ce l'andiamo! Brutto, no! Ma sei una bestia! Che facciamo? Rischiamo la vita per una principessa scappata! Lo so che ci servono quei soldi! Ascolta, non lo facciamo soltanto per quei soldi! Ma lo facciamo per quella montagna di soldi! Hai ragione, e quando hai ragione, hai ragione. E tu hai sempre ragione. Ok, la salviamo, ma come? Come ci muoviamo quelli che ci intercettano con il radar? Operazione marmellata. Hai ragione. Giù il periscopio. Giù il periscopio. FM. Abbiamo svelato gli hobbies di Roberto Fricantoni e allora andiamo a svelare anche gli hobbies del batterista degli Iron Maiden, Nico McBrien. Forse come ipotizzato dalla soluzione A, affila spade giapponesi e gioca a scacchi? Molto, ma molto, molto evocativo e suggestivo, ma sbagliato. Lei sta lavorando su questa cosa della suspense del quiz, mi piace molto. E allora forse gioca a golf e pilota aerei e o elicotteri? Non avrei mai detto che questa fosse quella giusta. Risposta esatta. E allora, risposta esatta. Non ha mai fatto giardinaggio, oppure non in un terreno l'equivalente di due campi da calcio, coltivato ad ortaggi, era buttata lì dalla nostra redazione. Bravi se avete azzeccato, malino se avete perso. Vi ricordiamo che come per il quiz della patente, due sono le risposte simili, sì, e una completamente sbagliata. Se avete azzeccato, vi beccate, sì, due punti per la vostra patente da vero rocker. Se avete sbagliato, pazienza, continuate imperterriti a provarci. Andrà meglio la prossima volta. Run to the Hills, Iron Maiden. E veniamo tanati al volo da Super Pig, che ci tira le orecchie per aver parlato di Nico come batterista degli Iron Maiden nel test attitudinale, e abbiamo programmato una Run to the Hills dove Nico non c'era ancora. Complimenti, caro Super Pig. Sono segnalazioni che di solito ci aspettiamo dal collega Mox, e invece è un piacere che ce l'abbia fatta tu. Salutiamo Morloi, salutiamo Alpinolo da Viareggio, tanti amici toscani che ci hanno confermato che il nostro motto "la nicchia vincerà" in terra toscana può essere frainteso, ma noi lo teniamo così lo stesso. Salutiamo Davide e soprattutto sua moglie Miriam, bloccata in tangenziale, il loro bimbo rock all'asilo. Salutiamo Chix, la Cri, vediamo un po', Mickey Rock 27, in tanti anche quest'oggi, Pane, burro, rock and roll con l'Ariele, un saluto anche a Roberta, Elena, Tiziano da Livorno. Abbiamo un argentino che vive a Livorno e lo facciamo sentire a casa con il rock, e invece Super Marlon, un rocker ecuadoriano a Genova, che ci vuole vendere la sua idea, ovvero mettere una webcam live così ci potete vedere. In cambio di questa idea vorrebbe che gli spediamo la patente davvero rocker a casa. No, caro Super Marlon, non ci siamo, mi spiace, ma tenteremo di venire anche a Genova per fare un test attitudinale collettivo e distribuire anche lì la patente davvero rocker. Un saluto anche al Conte di Firenze, fa sapere che la nostra rubrica sui Beatles gli piace molto e si domandava chissà come sarebbe suonata Get Back se fossero nati tutti a Castiglion dei Pepoli. Riuscirò mai a scoprirlo, caro Conte? Resta sintonizzato che prima o poi avrai pane per i tuoi denti. Ultima mezz'ora di pane, burro e rock and roll, cosa accadrà? Buh, intanto ci sono Rogna e Frigo. Ehi Rogna, Rogna figata! Grandissima figata! Oh, cosa c'è di nuovo, Frigo? Oh, sono troppo felice, felice, felice! Dai, dai, facciamo qualcosa! Facciamo un gioco! Andiamo sulla ruota! Facciamo gli scherzi, dai, dai, gli scherzi agli altri topi! Ma cosa c'hai? Perché sei tutto agitato e così contento? Mi hanno dato gli antidepressivi! Dai, dai! Giochiamo a nascondino! A ruba bandiera! Dai, Rogna, Rogna! Anche Monopoli va bene! Guarda, Frigo, in questo momento io voglio solo morire. Mi hanno rimpinzato di sonniferi. No, che sfigato! Resisto, Frigo. Tanto non può piovere per sempre. I'm la scintillante diretta di pane, burro e rock and roll sulle frequenze di Rock FM con l'Ariele, ma soprattutto con uno splendido Roberto Fricantoni. Maestro, non tossisca alla radio, per favore. Ricambio volentieri il saluto. Ma insomma, lo squillante Roberto Fricantoni, una ne fa, cento ne pensa, una ne pensa, cento ne è che oggi non mi sento al top della forma. La vedo un po' sbattutella, un po' pallidino quest'oggi, eh? Trova? Sì, un filo sì. Infatti non mi sento tanto bene. Guardi, le portiamo un bicchiere d'acqua al maestro. Grazie, un pensiero gentile. Maestro, l'ho chiesto gentilmente di non tossire però al microfono perché non è molto professionale. Ma suxo di... Aia! Ma suxo di... Maestro, l'ho già sentita così. E mochiso. Lei sta parlando al contrario. E rapimon. Lei sta parlando al contrario. On. E rapimon. Onaki stucciazzi mielam e iel. Lei può andare avanti a parlare un quarto d'ora, ma non si capisce nulla di quello che sta dicendo. E a dimostrazione che lei sta parlando al contrario, sa che faccio? On. Ci leggiamo un bel palindromo. On et nema tu lo sa. Si vede che ha una voglia pazza di leggere un palindromo. Redazione, grazie. On, sì, al contrario, perfetto. Legga qua che bello. Le parole che si possono leggere da un lato all'altro. Guardi, maestro, andiamo con una semplice, eh. A Roma trasalì la sarta mora. On, ere basso gli ovennon. Maestro, la vuole la pillola dopo o no? Is bis alolli alolli. E allora la legga. A Roma trasalì la sarta mora. A Roma trasalì la sarta mora. Vede che sta parlando al contrario. Lo sapevo, è quel patto col diavolo. Ai, mannaggia. O tambre fiamo non oi. Non si capisce nulla, maestro. O tambre fiamo non xavuf. Può parlare per un quarto d'ora, ma non le passerà mai. La vuole la pillolina per far passare? Isis, oloval. E allora leggiamone un altro. Anilo li bamir, banilo li, banilo li, oh non. Ah, lo sapevo che aveva una voglia pazza di leggersi un bel palindromo. Ce ne spariamo uno bello lungo? On. Senta qua che roba. Avida di vita, desiai ogni amore vero, ma ingoiai sedativi da diva. Vada. Elish divid opport. Legga il palindromo, altrimenti non le do la pillola. Alolli, balolli. Palindromo, vada. A vita di vita desiai ogni amore vero ma ignoriai sedativi da diva. Bravo Roberto Fricantoni, indemoniato. Eccoglielo, il suo bel sedativo da diva. Eccolo che ritorna. Prova Fricantoni, prova. Smetta di tossire. Prova 1-2, parli. 1-2, eccolo, 1-2-6-9. Bentornato maestro. Smetta di tossire, è una schifezza. Stava parlando al contrario. Impossibile. Come impossibile? Ha parlato al contrario per 3 minuti, l'ho sentita io. Non me ne sono resa conto, non le credo. Noi sì, è quella storia del patto, se lo ricorda? Ma io non ho mai firmato, sì, Vasco firmò. Sì, sì, va io bene, non bene. Ho mai firmato. Andiamo, c'era a prendere anche un po' Zucchero. D'aria, sì. Loro due hanno firmato. Lei no. Io assolutamente no. Allora pillola, ancora pillola. No, andiamo a fare un giro che è meglio, vai. Io il giro lo faccio, ma dopo pillola. Yatta tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira

Ebbene sì, è il countdown finale. Sì, the final countdown. Gli Europe, chiusura della puntata 129. Questa è la fine, tra pochi minuti. Volendo ci ritroverete su RadioRockFM.com. Nella sezione programmi in archivio potrete riascoltare la puntata 129 in streaming, oppure sul MySpace/PaneBurroFM ci trovate anche lì. Per quanto riguarda il weekend di rock and roll, questo sabato mi troverete in provincia di Siena, Colle Valdelsa, dagli amici del Sonar per roccheggiare con la musica di Pane, Burro e Rock and Roll. Dall'Ariele è tutto, sigla! Volendo, ci si risente domani, dalle 7 alle 9, sempre qua, su Rock FM. Pane, burro e rock and roll, la tua colazione rock. Pane, burro e rock and roll. It's very good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Che gran botta di culo aver incontrato Pane, Burro e Rock and Roll, che vi trasporta, vi tira per le orecchie fino alle 9 e prosegue a tirarvi le orecchie fino al mezzodì. Marco Gravelli. Arrivano con gli orecchioni lunghi così. Hai ragione, alla Dumbo li portiamo, infatti. A fine giornata si sentono come Dumbo. Trattameli bene, mi raccomando. Ci si risente domani alle 7. Amore, sono di no.